un attimo finché anche i nostri ospiti compilano il mondo per fare gli onori di casa, salutare tutti voi, ringraziarvi per la partecipazione sentita a questa iniziativa della biblioteca che ha ripreso chiaramente con grande fatica anche, ah grazie mille, le attività in presenza, grazie Floriana, e ci teniamo molto a mantenerle anche in una cornice coerente con quella che è la nostra attività, quindi tra gli scaffali, tra i libri, perché queste iniziative sono anche funzionali a una promozione della lettura, un ritornare a leggere dei libri non solo per divertimento, per così nel tempo libero, ma anche proprio come formazione, come approfondimento, come costruzione di un proprio pensiero. E quanto mai oggi può essere interessante avere sotto mano delle informazioni che non siano volatili come spesso ci capita anche attraverso altri veicoli. Bene, allora io ringrazio tantissimo anche i nostri ospiti, la signora Alessandra Limetti che leggerà alcune parti del libro che presentiamo dedicato al partigiano Pircher, Floriana Gavazzi in qualità di giornalista che farà da moderatrice e che ci introdurrà in questo percorso molto particolare per quanto riguarda la storia locale, Carlo Romeo, storico, che farà una rilettura di questo libro che appunto è stato scritto da Lasagna parecchi anni fa e che viene riproposto da Alfabeto. E infine Leopold Steuer, di nuovo appunto storico, anche lui molto conosciuto, entrambi non solo a livello locale ma anche a livello nazionale e oltre, e che hanno contribuito anche a costruire una coscienza collettiva e a far amare, a far scoprire la storia locale, che non era semplice, non era un argomento scontato, ma che anche veramente grazie al loro aiuto, alle loro pubblicazioni, ma anche all'attività proprio di promozione e di divulgazione, sono riusciti a far interessare e ad amare la storia locale, sfidando veramente a volte anche l'interesse e la disattenzione forse di alcuni, ma soprattutto anche la mistificazione da parte di altri. Io vi ringrazio, spero di rivedervi tutti quanti sempre tra gli scaffali di una biblioteca, sempre con un libro in mano o con un collegamento alla nostra biblioteca digitale. Rimanete con noi, abbiamo la possibilità di costruire dei percorsi anche attraverso dei laboratori di lettura o dei gruppi di lettura con dei dibattiti che stanno veramente avendo molto successo. Se avete piacere, la biblioteca può mandarvi le newsletter e quindi lasciate il vostro consenso. Grazie. E cedo subito la parola a Aldo Mazza, che in rappresentanza di Alfabeta con questo progetto editoriale molto interessante, e poi a Guido Margheri con cui questo evento è stato concepito e con la collaborazione dell'ANPI, soprattutto nell'ottica della festa della liberazione e di tanti altri contenuti, vero, che si condividono nell'ambito della cultura. Grazie. Grazie. Grazie. Buonasera a tutti, io sarò brevissimo. Prima di tutto ringrazio appunto la Claudia Augusta per l'ospitalità, ringrazio anche l'ANPI con il quale abbiamo progettato questa cosa e siamo arrivati adesso ad averla davanti e mi fa molto piacere che questo progetto si sia realizzato, e ringrazio particolarmente i due curatori che hanno valorizzato al massimo questa operazione, dandogli anche una grande profondità in termini di riflessione. La nostra terra, diciamo, ha come caratteristica quella di una storiografia, diciamo, ha avuto una storiografia strabica, diciamo, o una dimensione nella quale praticamente veniva rappresentato sempre l'immaginario collettivo di un gruppo, no? E spesso gli altri ignoravano questo immaginario. Negli ultimi anni, va segnalato anche per merito, sono due apripista, due personaggi che hanno giocato un ruolo molto importante in questo senso, si parla di nuova storiografia, diciamo, una storiografia che ha cercato in qualche modo di allargare il campo e di anche illuminare zone oscure. Si parla spesso, sempre più spesso, di storia condivisa, ma che cosa significa? Adesso io parlo come editore in questa sede. Secondo noi la storia condivisa è si può definire come un racconto del passato rivolto a tutti, in grado di spiegare quali sono le ragioni e le sensibilità di tutte le parti e anche appunto illuminare quelle zone oscure, a volte scomode. Quella del partigiano Pirker è un esempio molto significativo. Noi stiamo cercando da anni di lavorare in questa direzione come casa editrice per me è un valore importante il fatto che il libro esca contemporaneamente nelle due lingue, nel senso che storia condivisa significa anche condividere le letture, ed è molto importante che queste letture avvengano anche in contemporanea, diciamo. Sappiamo che c'è una scarsa abitudine, oppure risulta più scomoda, più difficile la lettura nell'altra lingua, per cui operazioni come queste cercano proprio di raggiungere questo obiettivo. Ecco, in questo senso lo vedo proprio come un esempio del nostro lavoro e sono molto grato a chi ce l'ha proposto, a chi ha collaborato a farlo, e mi auguro che ci sia interesse da parte vostra rispetto a questa operazione. Grazie. Bene, grazie a chi ci ospita e grazie al coraggioso editore che ha scommesso su questi contenuti e su questa, che non è solo un'operazione culturale. Grazie a chi ha accettato, Alessandra Limetti, la nostra Floriana Gavazzi, che è diventata un ospite fissa dei nostri dibattiti, la ringraziamo di farsi carico sempre, e grazie a due storici che non hanno bisogno di particolari presentazioni, ma che certamente hanno, come è stato detto, segnato una traccia. A noi piace pensare, e per questo abbiamo in un qualche modo collaborato con entusiasmo a questo progetto, che dentro questo libro, come dentro le loro ricerche, non ci sia soltanto la necessità di costruire, fare luce su determinati fatti storici e quindi di rendere in questo caso onore anche a certe storie, a certe persone che lo meritano, ma c'è anche qualcos'altro. Dentro queste storie ci sono delle radici feconde che ancora oggi ci consentono di affrontare i problemi della nostra autonomia, della nostra convivenza. Ieri abbiamo commemorato Hans Egarter, che vedrete ha una parte di rilievo all'interno di questa riedizione con la sua lettera del lungimirante del 47. Ebbene, nel commemorarlo è stato detto ieri che forse gli avrebbe fatto piacere sapere che oggi in un mondo, in un'Europa attraversata di nuovo dallo spettro della guerra, ogni tanto qualcuno evoca la necessità di abbattere i muri e di costruire ponti, e nell'evocare questi ponti evoca non a caso la nostra esperienza, che è stata in grado di fare determinate realizzazioni in termini di convivenza e di evitare scontri e spargimenti. Gli avrebbe fatto piacere. Il libro è emozionante in alcuni passaggi. C'è un passaggio su Nella Mascagni, come colei che ha garantito a un certo punto la documentazione che l'aveva tenuta, perché era una donna molto ordinata, tutta la documentazione che Egarter aveva presentato per avere il riconoscimento del ruolo della Andreas Hoferpund all'interno della Resistenza, con esiti negativi, ma comunque quella documentazione servì poi nei processi. E veniamo a questa cosa dei processi, perché è una delle ragioni per cui questa operazione è importante, oltre che sul piano culturale, sul piano della convivenza, è che tutta questa resistenza non è mai stata non solo riconosciuta e valorizzata, se non in alcuni aspetti negli ultimi anniversari dell'autonomia, ma rispetto a queste condanne ingiuste subite negli anni 50 nell'ambito della repressione, c'è la lettera di Terracini che è molto chiara su questo, che colpì diversi partigiani in tutte le zone d'Italia, ma qui particolarmente, queste persone, a parte la grazia appunto al partigiano Pircher, non sono mai state rivalutate dalle istituzioni. E non solo, i giudici che hanno pronunciato queste sentenze ingiuste, i nomi sono, si sono persi nella memoria, tenete conto che nel libro è spiegato perché sono sentenze ingiuste e assurde, ma la cosa più grave è che questa condanna ha pesato anche in modo che anche alcune forze politiche che sono più abituate ad agitare nazionalismi che non li considerassero dei, sostanzialmente, in maniera volgare, dei rubagalline. Non è così, ovviamente, per gli atti che hanno compiuto prima, durante e dopo, ma soprattutto per le motivazioni che li spingevano. Quindi questo libro noi ci auguriamo che serva, così come servì il primo libro di Lazzagna, a sbloccare una situazione che non riguarda solo il partigiano Pircher, ma riguarda il riconoscimento di una stagione a cui si deve, questa autonomia deve molto. Questo è il senso, ringrazio ancora tutti e cominciamo già subito da una, entriamo nel merito con una lettura di Alessandra Benetti. Nel tardo pomeriggio dell'8 agosto 1975, la direzione del carcere di Fossano, in provincia di Cuneo, ricevette il fonogramma del Ministero di Grazia e Giustizia che comunicava la concessione da parte del Presidente della Repubblica, Giovanni Leone, del condono condizionale al detenuto Giovanni Johann Pircher, condannato nel lontano febbraio 1954 dalla Corte di Assise di Appello di Trento, per omicidio volontario, rapina aggravata e violenza privata. Il maresciallo Dino Farci, comandante del carcere, che da mesi insieme al direttore del penitenziario Luigi Dotto non aveva fatto mistero anche sulla stampa della propria simpatia verso il detenuto e la sua triste storia, lo convocò subito per informarlo. Pircher era così frastornato che per convincerlo che questa volta era davvero finita, ci vollero anche le voci delle celle, quelle dei compagni che di lì a poco lo chiamarono per ascoltare la notizia alla radio e alla televisione. La notte non riuscì a chiudere occhio e tutto il giorno seguente rimase in febbrile attesa. Troppe volte si era illuso. Eppure, già tutta la stampa nazionale riportava il comunicato dell'ANSA in cui veniva annunciata la grazia al partigiano Pircher. Solo alle 8 di sera fu accompagnato all'uscita. Sullo slargo, antistante il portone del Santa Caterina, lo attendeva un piccolo comitato d'addio. Strinse la mano al maresciallo Farci e al cappellano, Don Felice Favole, mentre a nome del PSI di Fossano gli veniva consegnato un mazzo di fiori rossi. Ad aspettarlo c'era l'amico Franz Josef Schwimbacher, che l'avrebbe portato con sé a Torino e gli avrebbe procurato un lavoro presso la sua ditta di restauri edilizi. A quella tarda ora, così inconsueta per una dimissione, erano presenti pochissimi giornalisti. Alle loro domande Pircher rispose con sorrisi tirati e una dichiarazione di poche parole nel suo duro italiano che i giornalisti si erano abituati ad aggiustare nella forma. Ringrazio chi si è adoperato per tirarmi fuori di lì. Per primo Roberto Miroglio, che ho conosciuto in prigione e che ha studiato a fondo la mia situazione, ha scoperto i madornali errori giudiziari commessi ai miei danni. Poi i giornali di tutta Italia, che si sono battuti perché mi fosse resa giustizia. Infine, l'avvocato Lazzagna, che anche lui lì dentro e su di me ha scritto un libro. Abbiamo cominciato dalla fine, così come il libro, il saggio introduttivo di Romeo e Steurer comincia dalla fine. E adesso, in un flashback, come nei migliori film, cerchiamo di ricostruire la storia. Una storia che io personalmente non conoscevo. Sarei curiosa di sapere quanti di voi avevano sentito parlare del partigiano Pircher prima di oggi. Prima di oggi? O prima di ieri, l'altro ieri, quando è uscito sul giornale l'anticipazione. Beh, insomma, qualcuno di voi mi aveva sentito parlare. Io che non sono cresciuta in Alto Adige, ci sono arrivata già da adulta, non la conoscevo. Pircher nasce nel 1924 a Lasa, in Val Venosta. La madre muore in seguito al parto un paio di giorni dopo. Il bambino viene affidato, visto che il papà aveva già altri quattro figli, viene affidato a una famiglia di Parcines, di fornai. All'epoca succedeva, no, che se una famiglia non era in grado di crescere un bimbo lo affidasse a un'altra famiglia. E viene affidato a quest'altra famiglia con il patto che una volta cresciuto avrebbe dato una mano, sarebbero state braccia, insomma, per il lavoro. Quindi nasce sotto una cattiva stella. È un uomo che non ha affetti familiari, perché la famiglia che lo accoglie non svilupperà mai verso di lui affetto e legami significativi. Ed è un uomo semplice. Questa sua semplicità, questa sua solitudine saranno in qualche modo fatali per lui, nel senso che non lo aiuteranno senz'altro a difendersi da una mostruosità giudiziaria, da una serie di errori, ma più che di errori, di malafede da parte della giustizia, che appunto lo portarono diversi anni in carcere. Quello che abbiamo sentito non è poi alla fine un lieto fine, perché Pircher non ebbe né una revisione del processo, la Cassazione lo rifiutò la richiesta di revisione, né una grazia, una riabilitazione. Si tratta solo di un condono da parte del Presidente della Repubblica Leone, con una sorveglianza speciale per 5 anni, quindi insomma non ne esce pulito, non ne esce riabilitato. E quello che noi stiamo facendo stasera in fondo è un piccolo atto di riparazione postuma nei suoi confronti. Ogni atto di ingiustizia va riparato, che sia presente o passato. È importante, credo, è importante perché il mondo abbia un equilibrio, che le ingiustizie, là dove possibile, vengano ricordate e riparate. E noi lo facciamo con due storici che hanno voluto rispolverare un vecchio libretto del 1975. Il 1975 è l'anno chiave di questa vicenda, no? È l'anno della liberazione, ma prima è l'anno del respingimento della revisione del processo. Nel gennaio arriva la notizia che il processo non verrà riaperto, ed è anche l'anno in cui Giambattista Lazzagna, vedremo poi chi è questo personaggio, questo partigiano, questo esponente del Partito Comunista interessante per una serie di vicende, accusato di essere anche un ideologo delle Brigate Rosse, anche se poi verrà assolto. Giambattista Lazzagna si trova nello stesso carcere di questo partigiano sudtirolese, ne sente la storia, la sente da un altro carcerato, Miroglio, che si era specializzato nella riabilitazione, nella ricerca degli errori giudiziari, e scrive questo libretto, Il caso del partigiano Pircher. Questo libretto dà poi il via a una serie di movimenti e di pressioni da parte dell'opinione pubblica che porterà alla liberazione. Ecco, chiedo prima di tutto a Carlo Romeo come vi è venuto in mente di recuperare questa vecchia storia e che legame c'è con il suo libro del 2008 sulle tracce di Karl Güffler, il bandito. Okay. Troppe cose. No, dunque, intanto c'è anche un altro microfono, mi sembra, ma lo teniamo per poi. Io direi che si toglie la mascherina. Allora, intanto bisogna ringraziare Aldo Mazza, perché Alfabeta sono anni ormai che ha scelto questa strada di recupero di testi che sono molto importanti, e l'ANPI, perché in questo caso è stato proprio l'Associazione Partigiani che ha lanciato il progetto, e grazie ad Alfabeta si è realizzato. In un certo senso io e Poldi eravamo coinvolti da sempre, nel senso che io sono stato contentissimo di avere in mano questo libro, Devo dire, mentre scrivevamo, avevamo l'impressione che fosse molto, cioè poi abbiamo visto che è sottile, probabilmente perché è densissimo, nel senso che ci sono così tante storie in mezzo che in pratica anche in queste 136 pagine c'è mezza storia dell'Alto Adige. E noi abbiamo incontrato sia Pirker che Gibi, cioè la Zagna, tanti anni fa, e io avevo così, mi sentivo un debito così di memoria, nel senso che lui mi aveva dato tutto il fascicolo che riguardava la sua parte della vita riguardante Pirker, cioè la sua corrispondenza del 75, il dattilo scritto, ad esempio questo libro è fatto sul dattilo scritto che lui inviò all'editore, per cui è ancora più originale, no? E quindi in un certo senso era l'occasione proprio per recuperare questa storia, perché è una storia importante sia nella ricezione, e possiamo dire quello che ha cambiato questo libretto nel 75 è stato proprio il modo di vedere la resistenza in Alto Adige, sia a livello italiano e nazionale. Pensiamo al 75, all'immagine del gruppo tedesco in Italia. Certamente il pacchetto si era chiuso, c'era stata l'autonomia, ma insomma parlare di partigiani tedeschi era veramente, io ricordo, avevo fatto una ricerca su qual era la ricezione della resistenza tedesca nelle grandi opere italiane, i dizionari della resistenza, le opere collettive, e beh, non c'era niente, cioè nel senso che la prima volta che è stata tematizzata è stata con l'Einaudi, no? I volumi, la geografia della resistenza, in cui avevamo io e Poldi inserito appunto un contributo. Ebbene, questo libro era un po' una mosca bianca e per un po' ha fatto parlare, ha presentato all'opinione pubblica il problema. È un libro degli anni 70 e militante, quindi come dire, in questo libro si riconosce anche una storia italiana. La Zagna era militante, lui appena messo piede in carcere e conosciuto Roberto Miroglio, questo straordinario personaggio che era un truffatore, aveva messo su dunque 11 anni di condanna per truffa, che non è male, quindi vuol dire che era un impiegato di banca di Cuneo, e che aveva quasi preso gusto, ecco, è stato arrestato, e se uno va a vedere i giornali dell'epoca doveva essere un tipo originalissimo, perché ad esempio c'è una volta in cui, pur di essere presente a una parte del processo, ha pagato lui il taxi per andare a Cuneo. Allora, praticamente era in quegli anni in cui era in carcere, si era specializzato proprio nello studio del codice, di tutte le possibili, esattamente, e Pirker è stato inviato da lui, e Miroglio ha recuperato tutta la documentazione del processo, ha mandato il figlio addirittura a Trento e a Bolzano per recuperare i materiali. Ci sono delle lettere molto belle in cui si nota anche che l'ha fatto a sue spese. Miroglio prenderà due premi della bontà, uno di una rivista torinese e uno praticamente appunto sempre locale, e per i suoi meriti, nel senso che ha trovato su una ventina di casi, ha consentito la riapertura del processo, la revisione, e insomma ha ricevuto anche lui la grazia dal Presidente della Repubblica. Ebbene, quando Pirker, quando appunto Miroglio parla alla Lasagna di Pircher, ne parla insieme a tanti altri casi. Avevano in mente di fare una serie di memoriali, una collana, e difatti è poco noto, ma hanno contribuito a tirar fuori un Sinti che era stato messo dentro per una rapina che non aveva commesso, e c'erano tali come dire, prove contrarie, addirittura delle confessioni, eccetera, eccetera, insomma, erano riusciti anche in questo. E quando ne parla, Lasagna capisce che questo caso è diverso dagli altri. Qui non si tratta di un semplice errore tecnico, giudiziario. Qui, grazie a lui, il caso si trasforma in politico, cioè in una denuncia etica. E si può dire che lui è il primo che ne scriva, certamente con tutti i limiti del caso. Lui non poteva mettersi a studiare, a farsi arrivare i documenti da fuori, per cui lo mettiamo bene in luce che questo è un'edizione, è un manoscritto scritto in carcere nel giro di pochissimi. Certo. Oltre che dimenticata, questa è una storia scomoda, o forse è dimenticata proprio perché è scomoda. Quindi chiedo a Leopold Steurer di spiegarci perché fossero così scomodi dei partigiani sudtirolesi nel dopoguerra italiano. Non so se vuole usare il suo microfono, funziona? Sì, funziona. Se un attimo posso ancora tornare alla domanda di prima, quello che ha detto Carlo. La signora Gavazzi ha detto, insomma, che praticamente sin dalla nascita, dalla culla, questo destino di Pircher era un po', diciamo, quasi predesignato, insomma era una situazione sfortunatissima, e questo mandato in età scolastica ad altri contadini, ad un'altra famiglia, eccetera. E questo mi è venuto in mente proprio in questi giorni, e un pochettino anche Franz Thaler, della sua età di scuola elementare, ha passato quegli anni da altri contadini. E io penso che i ragazzi, era un fenomeno molto diffuso da noi, soprattutto nelle zone più povere, nell'alta Val Venosta, nel Val Salentino, sicuramente non nell'Ultra Adige, dove non c'è ricchi contadini, eccetera, ma proprio da questo ceto sociale provengono poi anche i disertori e gli obiettori di coscienza durante la guerra della Valpastiglia, cioè proprio da questi centri sociali, da questi gruppi emarginati dalla società benestante. Cioè c'è un certo parallelismo tra Pircher e Thaler. Io penso che questi giovani cresciuti così, in questo mondo così duro, difficile, hanno dovuto imparare presto a pensare e agire con la propria testa, altrimenti non potevano sopravvivere. Io credo che abbia avuto da fare anche con... c'era la necessità. E ovviamente quando Miroglio e Lasagna si occupano di questo caso, subito capiscono, vedono confermata la loro teoria da sempre, che il carcere è il posto per i più deboli e più indifesi. Chi al di fuori del carcere non ha nessun appoggio, né, né parenti, familiari, nessun appoggio politico, associativo, eccetera. Allora hanno proprio visto in lui un classico esempio di questo tipo, di vittima del carcere. Io devo dire, quando è venuto fuori questo caso nel 75, primavera, io mi trovavo ancora a Vienna, non avevo ancora finito la tesi, e mi hanno chiamato, sapevano, c'erano amici, Arno Teutsch, eccetera, di quel comitato, e quindi sì, ho visto quella traduzione, era una cosa un po' piuttosto brutta, che hanno fatto in fretta e furia la traduzione in lingua tedesca, che ho buttato giù anche due, tre, qualche pagina di introduzione, per carità. Però per me era una grande esperienza questo nuovo mondo del antinazismo nel Sud Tirolo, perché io nella mia tesi mi sono occupato dall'altra parte dei nazisti illegali degli anni 30, io ho avuto ancora occasione, come persona sconosciuta, politicamente ancora del tutto sconosciuta, di avere dei contatti con i vecchi nazisti. Io ho fatto tantissime interviste ancora primi anni 70, con quel gruppo di nazisti illegali degli anni 30, che poi hanno avuto un ruolo di spicco nelle opzioni, durante la guerra e nel dopoguerra, nella Volkspartei, nel mondo associativo, eccetera. E così mi sono visto catapultato, così dal domani, nel mondo dell'altro sul Tirolo. E lì veramente io sono venuto poi in estate, mi ricordo, per alcune settimane in Alto Adige, e lì ci fu anche un allievo della scuola cinematografica di Vienna, di Monaco, Josef Schwellenstattl, della Val d'Ultimo, che ancora fa film per la TV bavarese, che ha fatto allora un film documentario su Johann Pirchner, sul caso Pirchner. Purtroppo quel film è andato perso e io la prima volta lì sono girato per l'Alto Adige e ho conosciuto alcuni disertori, che poi con Marta Ferdorfer e Walter Pichler ci siamo occupati nei primi anni 90, abbiamo fatto quel libro, ma l'inizio io l'ho avuto nel 75, siamo girati per l'Alto Adige. E lì, per esempio, ho conosciuto Alana, una persona per me molto importante, che era Josef Loch. Josef Loch era molto amico di Egart, era molto amico di Mayr-Russer, perché faceva parte dell'Azione Cattolica, e l'Azione Cattolica di Mayr-Russer, ovviamente negli anni 30, era proprio diciamo, l'organizzazione di concorrenza dei nazisti illegali, perché tutte e due le organizzazioni, da una parte l'Azione Cattolica, tirolese, patriottismo tirolese antinazista, e dall'altra parte i giovani nazisti di Norbert Mumelter, eccetera, gli studenti. No? E quindi io ho conosciuto per la prima volta persone di spicco di questo antinazismo. Per me era molto importante. E tornare adesso alla domanda, perché emarginato? Sì. Sappiamo i primi mesi del dopoguerra, soprattutto fin quando ci furono gli alleati, il governo militare alliato, faceva comodo alla Volkspartei parlare di questo gruppo di antinazisti, perché è risaputo che la Volkspartei poteva essere fondata soltanto, hanno avuto il permesso dagli alleati soltanto che almeno verso l'esterno potevano essere soltanto dei Dableiber, ma non degli optanti dei nazisti, anche se poi dietro le quinte hanno fatto subito il patto tra Optanti e Dableiber. Ma niente, nessuno poteva negare che diciamo, la salvezza dell'Alto Adige, la salvezza politica dell'Alto Adige di questa terra a fine guerra era nelle mani dei Dableiber, era chiaro, no? Però in quel momento, concluso il dibattito sulla frontiera, una volta l'accordo di Parigi e la confine del Brennero, ci fu la parola d'ordine rincompattamento etnico, e quindi non parliamo più di opzioni, non parliamo più di seconda guerra mondiale, lasciamo perdere quella lacerazione, è vietato parlare, è un tabù, e la vittima di questa parola d'ordine sono stati i disertori, gli antinazisti, eccetera, come in tutta l'Italia, come è stato detto. Le vittime della guerra fredda negli anni 50 sono in questo clima di restaurazione, di involuzione politica democratica, adesso davanti ai tribunali appariscono i disertori, i partigiani e non più i fascisti. È la stessa, insomma, c'è questo sviluppo identico sia in provincia di Bolzano che a livello nazionale. D'altra parte sappiamo anche in Austria e in Germania è successa la stessa cosa, sì. Ma anche la lì rimozione, anche, no? Sì, la rimozione della resistenza, e poi soltanto pian piano negli anni 70 incomincia, e 80 incomincia poi di nuovo la ricerca scientifica, il dibattito politico, eccetera, ma con grande ritardo e con grandi ostacoli. Proseguiamo il nostro viaggio aritroso nel tempo, il nostro flashback, cerchiamo di capire come Hans Pirchner diventò partigiano. La stessa biografia di Hans Pirchner contiene i principali snodi della recente storia sudtirolese. Nato nel 1924 all'Asa, in Val Venosta, ultimogenito di una povera famiglia contadina, visse sin dall'inizio come un orfano. La madre morì pochi giorni dopo il parto. A causa delle critiche condizioni economiche, il padre affidò infatti 4 dei suoi 5 figli, tutti in età scolare, ad altre famiglie contadine dei dintorni, secondo la dura consuetudine vigente nella società rurale del tempo. Oltre a vitto e alloggio, i bambini e le bambine che lavoravano come servi agricoli non ricevevano alcun compenso, tutt'al più, una volta all'anno, un paio di scarpe o un cappotto o una camicia. Hans Pircher finì in una famiglia di Parcines, che oltre al Maso gestiva un piccolo panificio. Qui frequentò la scuola elementare, in un periodo in cui la politica fascista aveva ormai imposto l'italiano come unica lingua di insegnamento. Il profitto scolastico fu scarso, anche per le condizioni di abbandono in cui cresceva il bambino. Nel 1939, l'anno delle opzioni, Hans aveva 15 anni. Sulla base dell'accordo tra l'Italia fascista e la Germania nazionalsocialista, ormai strette alleate, i sudtirolesi di lingua tedesca e ladina dovettero scegliere se mantenere la cittadinanza italiana, accettando implicitamente la politica di snazionalizzazione, oppure assumere quella del Reich, che dal 1938 aveva annesso l'Austria, e trasferirsi in Germania nel giro di 3 anni. La propaganda tedesca, con l'aiuto del movimento nazista sudtirolese, sino ad allora clandestino, si impegnò con ogni mezzo per trasformare l'opzione individuale in una dichiarazione di identità nazionale e quindi in un plebiscito per la Germania. Si fece ricorso alle promesse più varie, come un territorio di insediamento unitario per il gruppo sudtirolese e, per i più poveri, la garanzia di migliori prospettive economiche. Furono anche fatte circolare false voci sull'intenzione di Mussolini di trasferire a sud del Po coloro che avrebbero deciso di rimanere in Italia. Laddove tutto ciò non bastava, si usarono minacce e intimidazioni. Le comunità di paese e persino le singole famiglie ne rimasero lacerate. Il risultato fu che più dell'80% degli aventi diritto optò per la Germania. Anche il padre di Hans scelse di emigrare e la sua opzione fu vincolante per i figli minorenni. La complessa macchina del trasferimento rallentò e infine si arrestò a causa dell'escalation della guerra. Nel 1943 ben 2/3 degli optanti, circa 150.000 persone, non si erano ancora spostati. In quell'anno Hans, 19enne, venne arruolato nella Wehrmacht tra i pionieri. Dopo l'addestramento militare fu mandato sul fronte orientale, dove visse la spaventosa esperienza dell'assedio di Leningrado. Ferito, fu portato in un ospedale militare non lontano dal confine svizzero e lì disertò nel luglio 1944. Passato in Svizzera, con altri come lui, venne quindi trasferito dalle autorità locali in un campo di lavoro, una torbiera nelle vicinanze di Muri, canton Argovia. Qui nell'autunno dello stesso anno si presentò Wilhelm Bruckner in cerca di agenti austriaci e sudtirolesi. Originario di Vienna, ex ufficiale anch'egli disertore, Bruckner era in contatto con i servizi segreti britannici per costituire un movimento di resistenza antinazista di orientamento cattolico, conservatore e monarchico. Il suo progetto veniva sostenuto soprattutto dagli inglesi, in quanto coincideva politicamente con i piani di Winston Churchill sugli assetti della futura Austria. Hans Pircher si dichiarò disponibile a collaborare e, dopo essere stato esaminato nel corso di ripetuti colloqui, venne invitato a prestare un giuramento di fedeltà in una chiesa a tale movimento, cui venne dato il nome latino di Patria. Gli fu affidato l'incarico di oltrepassare il confine tra la Svizzera e l'Italia, ormai occupata, passando per la Val Venosta, che conosceva bene. Dopo l'8 settembre 1943, le province di Bolzano, Trento e Belluno erano state riunite nella zona di operazioni delle Prealpi, Alpenvorland, e di fatto annesse al Terzo Reich, sotto il comando di un commissario supremo, il Gauleiter tirolese Franz Hofer. Pircher venne provvisto di documenti falsi, denaro e messaggi da consegnare a Hans Egerter nel 1943 a capo dell'Andreas Hofer Bund, AHB, il movimento antinazista su tirolese nato già nel 1939 durante il periodo delle opzioni. In due occasioni svolse il servizio di corriere tra la Svizzera e Merano. Poi, impedito nel ritorno, fu invitato da Egerter a riparare in Valpassiria e unirsi al locale gruppo di disertori che rappresentava un caso davvero particolare. I suoi circa 30 membri, per lo più giovani e con alle spalle anni di guerra, erano aiutati da una parte dalla popolazione, tra cui anche parroci e cooperatori. Ecco, queste pagine sono tratte dal saggio introduttivo firmato da Romeo e da Steurer insieme, perché non vi abbiamo detto che il libro è una riedizione del caso del partigiano Pircher del 1975 di Lazzagna, ma corredato da tutta una documentazione storiografica, appunto un saggio introduttivo, e poi vedremo via via alcuni altri documenti, uno di Terracini, uno di Egerter e anche una ricostruzione biografica della figura di Lazzagna. Quindi c'è tutto un apparato storiografico che rende questo libro interessante e aggiornato. Dunque, siamo arrivati al punto della militanza di Pircher nel gruppo di Egerter. Chiedo a Romeo di inquadrare un pochino questo gruppo e di vedere il suo ruolo nella resistenza sia fino al 25 aprile sia anche nei mesi immediatamente successivi, perché il gruppo continuò ad agire su incarico del comando militare alleato fino all'autunno del 45. Sì, dunque, i disertori sono un fenomeno molto importante in Sud Tirolo, più o meno 400. Paul Di Marta, no, e Walter hanno fatto un lavoro enorme di raccolta, di interviste, per cui hanno, come dire, presentato il fenomeno. E quello che è singolare del gruppo della Passiria è che sono chiamati partigiani anche dalla popolazione. E questo non vuol dire che partisanen, ed è, diciamo, per il lessico di quell'epoca molto raro, molto strano, e sia che sia in un'accezione positiva o negativa, in qualche modo rappresenta che la frattura che c'è nella valle, sia per reti amicali, di simpatia, forse anche sociali, nel senso che questi spesso sono giovani, appunto come ha detto Poldi, in genere proletari, è il proletariato della valle. E sono giovani, intanto che hanno anni di guerra alle spalle, per cui hanno armi, hanno anche quella decisione che viene dall'esperienza, per cui tendono a rispondere alle razzie, alle perquisizioni, ecco, e soprattutto quando vengono toccati i familiari, perché appunto in quel periodo c'è una legge di guerra che prevede che per i disertori o renitenti alla leva ci sia l'arresto dei familiari. Ebbene, in Passiria la SOD, insomma la polizia collaborazionista, ci va pesante, perché ne arrestano a decine, e questo crea delle reazioni. Ecco, Pircher si trova proprio in questo periodo in Passiria, che non era la sua valle, però lui si trova in mezzo fra magari qualche attacco alla notte, a sparare alla finestra del sindaco come una minaccia, guarda che se fai ancora, ecco, oppure ci sono episodi che sfiorano, cioè ce n'è uno che è piccolissimo, ma quando io l'ho letto perché poi su tutte queste cose c'è stato il processone nel dopoguerra, no? E il processo per il quale poi Pircher è finito dentro. Allora, c'è un episodio per me così di una chiarezza, è la denuncia di uno che, no, non la denuncia, lui viene come testimone. Allora, lui era quello che affumicava lo spec per il paese, cioè in genere c'era una cantina più grande delle altre e tutti davano, i paesani, davano lo spec da affumicare. Una notte entrano i partigiani e chiedono: allora, dici qual è lo spec di Hofer? Allora lui dice: questo, ok. Qual è lo spec di... cioè praticamente rubavano lo spec secondo uno schema politico, ovvero i nazisti. Ecco, io questo l'ho trovato una prova lampante della spaccatura che c'era nella valle. Ecco. E poi ovviamente c'era il capo Guffler, molto più duro degli altri, il quale non si accontentò poi nel dopoguerra, cioè negli ultimi giorni della guerra fece fuori il capo Sod che aveva arrestato lui e un compagno. E il compagno era finito a Dachau, lui era finito prima condannato a morte, poi condannato in una compagnia di punizione, quelle che venivano inviate come carne da cannone, era riuscito a scappare dall'Ungheria in piena guerra, a tornare in Valpassiria molto, molto incavolato, per cui è per questo che era, come dire, il più duro. Ecco. E poi appunto dicevamo, anche dopo la fine della guerra il comando alleato dà a questa formazione il compito di catturare i nazisti, li arma e al termine di questo periodo rilascia anche una dichiarazione dicendo: questi partigiani hanno operato d'intesa col comando militare alleato e tutte le loro azioni si considerano quindi autorizzate e non passibili di condanne, di persecuzione penale. Ecco. Parliamo adesso un po' invece del processo Leopold Steurer. Il processo è veramente, intanto ce ne sono due, un primo processo a Bolzano che si conclude con un'assoluzione e un secondo a Trento, Corte d'Assise di Trento, che si conclude con condanna per duplice omicidio, rapina aggravata. C'era una marea di... avevano rubato anche il lardo, lo spec. Furti, incendi, esatto, e tutto quanto. Allora ricostruiamo un po' questa vicenda giudiziaria davvero assurda. Sì, forse è un po' difficile ricostruire nel modo più preciso questa faccenda, perché non si sa da come è partita tutta la faccenda, il primo processo del 50, del 51, 52, perché anche lì Gatterer, insomma, l'unico libro fino agli anni 80 che ci fosse questo, che dava un minimo di informazioni, c'era in Kampf gegen Rom di Gatterer, dove parla del gruppo Eger, eccetera. E lì già Gatterer ha intuito che probabilmente ci fu una collaborazione tra ex nazisti della Valpassiria e persone della pubblica sicurezza dei tribunali italiani per una rivincita contro questo gruppo Eggart, da presentarli, cioè cancellare l'anno zero del 45 e da presentarli non più come partigiani, come resistenti, come disertori, ma come tu dicevi, come ruba galline e come scansa fatiche, Druckenberger, eccetera, e come semplici criminali. E quindi hanno inscenato questo processo. Però in quell'anno, in quel momento ancora, è intervenuto nel processo, ci furono dei testimoni molto importanti come Erich Ammon, che non solo all'interno del gruppo di lingua tedesca ha avuto, insomma, un'autorità molto forte, ma anche nel gruppo italiano. Non dimentichiamo, perché finora non è stato accennato ancora, che sia Erich Ammon, fondatore, primo presidente della Volkspartei, antinazista, e la sua famiglia, in contatto con Meyer-Nusser, con Eggart, eccetera, nel 43 ha cercato la collaborazione con Manlio Longhorn. Quindi quando nasce il CLN con i cinque partiti, con a capo Manlio Longhorn, insomma ci furono questi incontri, almeno due o tre, tra Manlio Longhorn e Erich Ammon, e addirittura Longhorn ha preparato un volantino bilingue che volevano distribuire poi nel 44, no? Si è trovata una copia di quel volantino e Carlo Romeo ha scritto un bel articolo, e quindi si può vedere che ci fu questo tentativo di collaborare e anche se era chiaro sia per Hammond che per Longhorn che la divisione tra i due gruppi dei due gruppi di resistenza fu il futuro assetto territoriale dell'Alto Adige del Südtirol, questo è chiaro, sul confine del Brennero. Lì non ci fu discussione perché Hammond era a favore del ritorno all'Austria, mentre il CIDN era per la conferma del Brennero. Però lì potremmo dire che hanno trovato una soluzione, secondo me molto felice. Non parliamo di questo, il problema primario è la guerra, è il fascismo e il nazismo, e quindi lottiamo insieme contro questo nemico e rimandiamo a dopo guerra la faccenda, la discussione sul confine del Brennero. E possiamo veramente paragonarlo anche al CLN, se pensiamo nel 43, quando nasce il CLN a livello a Roma e poi a Milano, anche lì ovviamente due partiti, almeno i liberali e i democristiani, erano più a favore della monarchia, mentre i tre partiti di sinistra erano per la Repubblica, e quindi hanno trovato la soluzione: rimandiamo la questione monarchia o Repubblica al dopoguerra, se no non c'è collaborazione. E quindi hanno trovato anche loro insomma, questo compromesso per la lotta unanime. E così è stato anche, secondo me, tra Longhorn e Hammond. Ma purtroppo sappiamo con gli arresti del dicembre di tutto il CLN locale e i capigruppi della zona di industriale, il CLN più o meno sparisce e Longhorn per molto tempo non ha più un interlocutore a livello italiano. E possiamo anche dire che nell'immediato dopoguerra ci fu ancora dei contatti tra Eichhardt e la resistenza italiana, e non a caso abbiamo messo questo articolo del 47 su il nuovo ponte, che secondo me è l'ultima occasione, l'ultimo momento di unità o comunque di incontro tra le due resistenze, perché era chiaro per tutti e due un futuro politico per questa provincia ci può esserci soltanto se le persone moderate e democratiche di tutti e due i gruppi sono in grado di collaborare, altrimenti non c'è un futuro per questa terra. Quindi collaborazione tra i due gruppi. Questa è, secondo me, l'esperienza purtroppo che si è interrotta. Possiamo anche dire che il caso Pirchen, nel 50, questo felice incontro Miroglio-Pirchen e poi Lasagna, di nuovo c'è l'incontro tra resistenza italiana e tedesca, in questo caso non soltanto qua a Bolzano, ma attraverso Genova e Fossano, ha dovuto fare una strada un po' più lunga e quindi è venuta fuori questa bella cosa. E poi i processi, sì, quindi tutti assolti nel 51 a Bolzano, mentre a Trento sappiamo che sia il procuratore che tre di questi condannati del 51 hanno fatto ricorso perché non erano contenti della sentenza del 51, e lì c'era un'altra corte che non faceva più valere le ragioni, insomma, delle leggi che prevedevano l'amnistia per i reati commessi durante la guerra di liberazione, ma addirittura nel dopoguerra anche usati per dei fascisti per poter uscire dal carcere. Quindi una sentenza del tutto assurda, come sia Miroglio, ma soprattutto Lasagna, come esperto, come avvocato e conoscitore della Costituzione e della guerra di liberazione, insomma ha fatto trasparente, no? E quindi questo ricorso alla Cassazione, e purtroppo anche lì l'hanno negato, e ci voleva quell'altra via d'uscita. Ecco, Steurer ha accennato al fatto che gli accusatori del gruppo dei partigiani, perché ricordiamo erano 19 in tutto le persone, i partigiani a processo, gli accusatori erano ex collaborazionisti dei nazisti, sì. Quindi esponenti del SOD, no? Südtiroler, sì. Ordnungsdienst, che erano di fatto i collaborazionisti della Valpassiria. Quindi abbiamo l'assurdo di ex nazisti che accusano ex partigiani, sì. E ex partigiani che finiscono in carcere, mentre gli ex nazisti l'hanno fatta franca, anche in virtù delle amnistie che lo Stato italiano aveva deciso proprio per la pacificazione. Ecco, veniamo allora alla carcerazione di Pircher, una carcerazione che tra l'altro avviene non nel 54 al momento della condanna, ma diversi anni dopo, e poi vediamo cosa succede in carcere con l'incontro con Miroglio e con Lazzagna. Sì, dunque, intanto Pircher non viene informato del processo di appello a Trento. Secondo il tribunale è non reperibile, nonostante lui fosse impiegato in una cava e il libretto di lavoro lo testimonia, e quindi c'è già questa strana cosa, e quindi viene, e poi una, ecco, sull'Alto Adige, il giornale Alto Adige, dopo la prima sentenza, c'è un articolo molto interessante, il cui contenuto è questo: allora da ora in poi dobbiamo accettare che ci sia stata una resistenza sul tirolese, cioè questa la sentenza, che poi vi fu una camera di consiglio di tante ore nella notte, e stupì molto il giornale Alto Adige, e ci fu questo articolo: beh, d'ora in poi la sentenza dice che dobbiamo rivedere un po', ci fu una resistenza anche di lingua tedesca. Dopo la sentenza di Trento uscì un articolo che circa il senso era: ah no, era vero che non c'era, quindi praticamente è questo che è molto interessante. Dunque, ritornando a Pircher, lui continua, fa un po' il pendolare tra la Svizzera e la Venosta, finché nel 66, per puro caso, per un controllo, e dicono: ma lei ha una condanna, e viene preso, arrestato, e portato a Trento, e poi fa tutto un giro di carceri e dentro un tunnel. Ecco, abbiamo usato proprio questa immagine, un tunnel, perché una persona sola, senza una rete di protezione, senza, non dico un partito, ma senza neanche un circolo che lo sostenga. E passò purtroppo anche dei periodi, diciamo, psicologicamente così bui, che tentò proprio di togliersi la vita, e fu messo nel manicomio criminale di Montelupo per due volte. Perché non l'abbiamo detto, ma la condanna era a 30 anni. A 30 anni. Poi c'è questo incontro a Fossano, e tutti di Pircher parlavano un gran bene, cioè nel senso, un lavoratore, era uno che si metteva via i soldi lavorando appunto in falegnameria, faceva dei quadri sul paesaggio, insomma, praticamente a Fossano diventò simpatico a tutti. C'era il maresciallo che addirittura nelle interviste poi sulla stampa dice: non può essere colpevole, una persona troppo, troppo buona, troppo... E allora Miroglio, questo personaggio incredibile che si studia tutto il caso, raccoglie le carte, fa un primo incidente di esecuzione, ovvero un tentativo di far reputare nulla proprio la sentenza. Non funziona, ma lui non si perde d'animo, continua, eccetera, eccetera. Piano piano comincia la stampa a interessarsi, ma nel frattempo a Fossano è venuto anche la Zagna, che appunto dice: ma qui il problema non sono le questioni tecniche, anche se sono proprio clamorose. Qui bisogna parlare di Pircher come partigiano. E allora quello che ha dato GB nel caso è stato proprio di spostare l'attenzione, no? dal caso tecnico all'esperienza partigiana, e quindi è lui che, io devo dire, questa cosa non si vede nel libro del 75, ma si vede nella corrispondenza. Lui scrive in giro con la sua rete, sia di partito che partigiano, lui scrive a tutti, addirittura un avvocato di Como che ha contatti con la televisione in Svizzera, che farà un servizio in cui chiede aiuto, cioè, se qualcuno ha informazioni su, ecco, poi sulla Patria, sulla Patria. Sì, ecco, poi sul Patria è divertente questo. Abbiamo scoperto come mai sia Terracini sia GB scrivano così spesso. GB è la Zaga. Ah sì, scusatemi. Gian Battista. Come amichevolmente, mai? Che ormai esatto, è un amico per sì. Romeo, no, ma dopo avere praticamente tutti quelli che lo conoscono lo chiamano in questo modo, a parte i vecchi compagni partigiani, Carlo lo chiamavano, che era il nome di battaglia. No, dunque, in pratica, in tutto il libro si dice: ma come, questi partigiani sudtirolesi hanno combattuto per la patria e loro, non sapendo appunto la situazione sudtirolese, l'Andrea Soferbum, perché non c'era niente, io ho trovato una lettera in cui lui ha saputo che c'è un certo Gatterer che ha scritto e chiede a Bolzano, chiede: mi trovate questa pagina, mi fate una però arriva diciamo tardi, non ce la fanno. Allora, praticamente, Patria, ecco, praticamente era perché Pirker continuava a dirgli: sì, ho giurato per chi? Per Patria, Patria. E abbiamo scoperto solo dopo che Patria era il nome in latino di questa organizzazione della resistenza austriaca, per cui, come dire, c'era anche questa cosa che, perché i documenti poi si scoprono dopo, soltanto Gerald, no, nel 2002 ha trovato in Inghilterra il documento in cui risulta Pirker come agente segreto inglese, ecco. E di tutto questo, ecco, il libro già anticipava, e difatti lui diceva: ma questo è soltanto una piccolezza, c'è tanto da fare, lo scriveva al circolo a favore di Pirker, che era nato qua. E adesso ne parliamo, infatti. Prima abbiamo parlato delle opzioni, c'è anche da ricordare che una delle motivazioni della condanna, secondo la Corte d'Assise d'Appello di Trento, era il fatto che questi sudtirolesi erano optanti, senza considerare che in realtà, per esempio, Pirker aveva 15 anni nel 39 ed era stato suo padre che aveva optato per la Germania. Lui era minorenne e doveva seguire per forza la decisione paterna. Quindi c'era questo presupposto assurdo per cui se uno aveva optato per la Germania era impossibile che poi lottasse contro l'invasore nazista. Ma veniamo appunto a questo comitato di liberazione per Pirker. Esce il libro di Lazzagna, si crea un movimento di opinione pubblica in Italia, i giornali cominciano a parlarne e a Bolzano qualcosa si muove. Da gennaio anche la stampa locale aveva cominciato a parlare del caso e la sede RAI regionale aveva trasmesso due servizi radiofonici curati da Giancarlo Vincenti. L'uscita del libro di Lazzagna in marzo ebbe l'effetto di moltiplicare l'eco della vicenda sulla stampa nazionale, con particolare coinvolgimento di quella legata ai movimenti della sinistra extraparlamentare. L'onda arrivò ben presto anche a Bolzano, dove il circolo culturale La Comune promosse un comitato per la liberazione di Hans Pirker. Contattato l'editore, il presidente del circolo, Sandro Forcato, comunicò a Lazzagna e Pirker l'intenzione di tradurre il libro in tedesco in occasione del 25 aprile, per farne una diffusione di massa nella nostra provincia nelle due lingue. Rispondendo positivamente anche per conto di Pirker, Lazzagna sottolineava i limiti di partenza del suo modesto lavoro, con il quale aveva voluto soprattutto contribuire alla fine della scandalosa detenzione di un valoroso partigiano, ma anche che erano emersi attraverso la vicenda di Pirker elementi di grande interesse storico e politico. Tra queste piste per ulteriori future ricerche che si sarebbero dovute sviluppare sul territorio, indicava l'Andreas Hoferbund, Hans Egarter, il ruolo della Chiesa, l'emarginazione di tale movimento nel dopoguerra, la continuità del potere tra la gendarmeria tedesca e il SOD, i carabinieri e la magistratura italiana, nella persecuzione della resistenza sudtirolese. Temi e argomenti estremamente interessanti e stimolanti per una ricerca assai più ampia di quella che io ho potuto solo abbozzare. Per l'edizione tedesca del libro, il Circolo chiese a Pircher un'introduzione e questi si rivolse alla Zagna, che la scrisse insieme a lui in italiano. Lo scritto cominciava riassumendo la propria scelta di campo, avvenuta con l'abbandono del tranquillo rifugio svizzero per tornare nelle nostre montagne sudtirolesi a combattere il nazismo. Si soffermava poi sulla trasversalità del fenomeno resistenziale. Mi parve che tutti gli uomini, senza distinzione di nazionalità, di lingua e di religione, dovessero unirsi contro questa guerra inumana e criminale. Scendeva poi nel dettaglio dell'attività svolta come corriere di Egarter e poi nel gruppo in Valpassiria, aiutato da una parte di valligiani, veniva ricordato padre Franz Inner Ebner, che per questo erano stati perseguitati. La propria vicenda giudiziaria coincideva con una vendetta trasversale. Questo era il passaggio più politico dello scritto. Purtroppo queste cose sono state presto dimenticate e io e i miei compagni di lotta fummo abbandonati alla vendetta dei carabinieri e dei magistrati che si fecero complici dei tanti nazisti che subito dopo la guerra e ancora oggi conservano posizioni di preminenza e di potere nelle nostre valli sudtirolesi. Proseguiva constatando che per lui si era aperta una piccola speranza grazie all'indignazione che tanti mi manifestano con lettere di solidarietà da tutte le parti d'Italia e concludendo con la certezza di aver fatto il mio dovere di uomo, di cattolico, di sudtirolese e di italiano, come i suoi compagni e i contadini che li assistevano a rischio della loro stessa vita. Tradotta a Bolzano, la missiva fu poi inserita in testa al libro. Se ne discusse per la prima volta in occasione dell'incontro organizzato il 22 aprile a Bolzano dal Circolo della Stampa e dal Comitato Antifascista nato per le celebrazioni del trentennale. Le domande del pubblico, in gran parte giovanile, si concentrarono sul tabù costituito dal movimento di resistenza sudtirolese e il caso Pircher tornò più volte negli interventi. In conclusione, l'ex senatore SVP Friedel Volker annunciò che avrebbe sostenuto la petizione a favore di Pircher, lanciata dal comitato bolzanino. L'occasione del trentennale della resistenza fece sì che la mobilitazione per Pircher raggiungesse molte piazze italiane. I più coinvolti, come detto, furono i movimenti della sinistra extraparlamentare che denunciarono la contraddizione tra la retorica delle celebrazioni ufficiali e la realtà del caso Pircher. Nelle manifestazioni di Bolzano, Trento, Milano e Torino furono diffuse migliaia di cartoline che recavano su un lato la fotografia di Pircher dietro le sbarre di Fossano e sull'altro la dicitura «Trentesimo anniversario della Resistenza, grazie al partigiano Pircher». Quasi 2000 di queste, con messaggi di incoraggiamento, gli furono inviate a Fossano nel periodo intorno al 25 aprile. Leopold Steuer, anche Friedel Volker appoggia la petizione, quindi questo comitato per la liberazione ha una caratterizzazione interetnica. Tra l'altro ho scoperto che Sandro Forcato fu appunto promotore di questa petizione e con lui il Circolo La Comune, così come Franca Rame e Dario Fo si erano, con Soccorso Rosso, si erano mobilitati per la liberazione di Lazzagna. Ecco, ricostruiamo un po' questo periodo, questo movimento. Sì, quando nella primavera del 75 a Proda, qua in provincia, il caso, io devo dire, io ero ancora a Vienna, no? Conoscevo poco della situazione qua. So che ci fu questo comitato che poi ho conosciuto alcune persone come Arno, era un bilingue tra soprattutto i sindacati come Arno Teutsch, che era molto importante, sì, perché proprio in quegli anni del dopo, dell'immediato dopo Pacchetto, anche i sindacati diventano bilingui, cioè il bilinguismo e la convivenza diventano temi molto importanti in quei primi anni 70, anche in modo molto felice, molto appoggiato dalla popolazione. Però quello forse che è importante dire che mentre così questa grande simpatia da parte italiana in genere e soprattutto della sinistra extraparlamentare, come anche qua a Bolzano, l'imbarazzo più grosso in questo caso è stato per la Volkspartei e per il Dolomiten sicuramente. E anche se Volcker allora ha detto sì, anche io appoggio queste firme eccetera, io non so che cosa concretamente è stato fatto, secondo me non molto, e che finché Fritz Volcker pubblichi le sue memorie ci vogliono ancora quasi 10 anni, cioè nell'84, dove per la prima volta trova delle parole molto chiare su opzioni, nazismo, resistenza eccetera, ma intanto sono uscite già tante parecchie pubblicazioni. E ricordo poi i primi anni 80, proprio nell'81, scusate questo insomma un attimino, uno dei primi film sulla resistenza l'ha fatto Gerd Stafler, la TV è stata molto importante, il giornalista Gerd Stafler, in collaborazione sempre con colleghi italiani lì alla RAI in Piazza Mazzini, Gerd Stafler, io ho avuto un po' di documenti intanto, ha fatto un primo film sui disertori in Alto Adige, che ha destato molto scalpore, e poi nell'83, 40 anni, settembre del 43, dove parlava dell'occupazione nazista, lì ci fu una discussione pazzesca. Però nel 75, mi ricordo, il Dolomiten all'inizio non sapevano cosa fare con questo caso Pirchio, mettevano addirittura in dubbio se era un partigiano, siccome veniva soltanto, secondo loro, strumentalizzato dalla sinistra, che hanno scoperto di nuovo un partigiano, un resistente, eccetera. E solo un poco dopo si sono attaccati, diciamo, al treno che era partito, soltanto dopo, e soltanto per far vedere la diversa posizione del Dolomiten, ma anche del Volkspartei, al caso Pirchio e a un altro, nel 76, proprio un anno dopo, scoppia il caso di 3 soldati del Polizeiregiment Bozen che vengono arrestati. Voi sapete che il Polizeiregiment Bozen, il primo, composto soltanto da optanti, mentre negli altri Polizeiregiment poi ci fu anche l'influenza insomma del Eckarter e dell'Andreas Overbund, negli altri Polizeiregiment, ma il primo era composto ancora soltanto da optanti, e sappiamo nel Bellunese si è macchiato proprio di crimini di guerra pazzeschi, Valle del Biois, e lì iniziò il processo per le stragi della Valle del Biois, e vennero arrestati 3 soldati del Polizeiregiment Bozen. E subito dopo, io mi ricordo bene, ce l'ho ancora a casa gli articoli del Dolomiten e del Volksbund e le prese di posizione del Volksbund, subito dopo i consigli comunali dai comuni da dove provenivano questi soldati, subito una mozione unanima, sono innocenti, subito il Dolomiten, grandi articoli, solo 3 innocenti, insomma lì non mettevano nemmeno in discussione che potevano casomai essere coinvolti anche in dei crimini di guerra, insomma lì era sin dall'inizio, lì vedevi tutto l'appoggio della comunità sudtirolese, della stampa, del partito, dei consigli comunali. Per Pirchio non si è levato nemmeno una mano, e solo dopo sì, hanno accettato, sì, va bene. Però sulla via personale, sempre. Prego? Sì. Poi dopo volevo proprio aggiungere questo. Sì. Allora, il Dolomiten incomincia veramente a presentare il caso dopo aver aspettato molto, e dopo questa lettera di Pirchio pubblicata sul libro tedesco, ma ripresa dall'Alto Adige, quindi attenzione, il caso Pirchio sta per diventare un cavallo di battaglia della sinistra in Italia, della grande stampa, per cui si ritorna a parlare del nazismo in Alto Adige, perché Pirchio era un partigiano, poi della sinistra extraparlamentare, E a Bolzano, da parte di un circolo strano, perché siamo nel periodo in cui i circoli bilingui sono visti in maniera, ecco, ma il colpo è che l'Alto Adige lo pubblica questa lettera, per cui sta diventando anche un caso italiano. E allora alla fine esce questo primo grande articolo, perché fino ad allora c'erano soltanto piccoli articoletti di cronaca, in cui si dice che già da tempo il senatore Brugger si è interessato e che tramite l'amico di infanzia che è in contatto con lui, ecco. E noi abbiamo quello che succede, cioè abbiamo la testimonianza di quello che accade a Fossano. Circa a Pasqua arriva questo amico d'infanzia di Pircher, che finora aveva condiviso tutto, su tutta la linea, anzi ci sono certi suoi passaggi in interviste che appunto parla anche lui del fatto perché lui che ha fatto il partigiano e tanti albergatori su tirolesi che erano nell'SS sono liberi, eccetera. Beh, insomma, rimprovera Pircher e Miroglio di essersi messi nelle mani della sinistra, dei terroristi, eccetera, eccetera. Insomma, praticamente tutti cercano di mettere le mani sul caso. Ecco, quindi come le cose che finiscono bene hanno tanti padri, poche madri, perché le donne vengono sempre messe, esatto, ma insomma praticamente c'è questo il tentativo di dire no, siamo stati noi a liberarlo, ecco. Sì. Ci avviamo verso la conclusione, ci sono ancora due documenti importanti da leggere che sono fondamentali, perché in realtà la liberazione avviene dopo un appello sul Corriere della Sera da parte di Umberto Terracini, partigiano, tra i fondatori del Partito Comunista, uomo che si fece i suoi begli anni di galera durante il fascismo, presidente dell'Assemblea Costituente, senatore del PC, quindi insomma un uomo con un peso politico notevole. E lui fa un appello sul Corriere della Sera al Presidente della Repubblica perché liberi Pircher. Ne ascoltiamo un passaggio. Anche se tutto si fosse svolto giudiziariamente in modo inappuntabile, anche se Giovanni Pircher avesse compiuto i reati addebitati, non si potrebbe non rimanere allibiti ed esterrefatti dinanzi alle motivazioni addotte in sentenza per condannarlo. Essa infatti non contesta che i fatti si siano verificati nel corso della guerra di liberazione e che le vittime avessero appartenuto al servizio militare di polizia dei tedeschi, e neanche che Pircher facesse parte di una formazione partigiana, ma gli nega i benefici disposti da vari provvedimenti che fra il 1944 e il 1953 avevano variamente assicurato l'impunità a tutti gli appartenenti a forze armate di qualunque genere per qualunque reato commesso durante la guerra di liberazione, con la peregrina e infame argomentazione che comunque i cittadini della regione che al tempo dell'ignobile mercato di quella popolazione intervenuto tra Mussolini e Hitler avessero optato per la Germania e avessero conseguentemente prestato servizio nelle forze armate tedesche, anche se poi in seguito a diserzione fossero passati alla resistenza. Non potevano averlo fatto che per motivi di vendetta o di bassa utilità personale. Così, invece di mettere in conto il maggiore travaglio spirituale e i più gravi pericoli che una scelta di campo resistenziale doveva comportare per un appartenente alla minoranza tedesca di quella popolazione, in quanto dettata non dal sentimento nazionale offeso dalla dominazione straniera, ma dalla ribellione della coscienza morale civile dinanzi alle infamie naziste, di essa si fa colpa Pircher, che la sua scelta aveva consacrato con imprese coraggiose per le quali né allora né poi aveva avuto, non dico ricompensa, ma neppure riconoscimento. La sentenza della Corte di Assise di Appello di Trento fu evidentemente frutto di una congiuntura caratterizzata in tutta Italia, ma specialmente nelle regioni nelle quali la resistenza fu più fieramente combattuta, dal più rabbioso piano di rivincita di restaurazione, al qual fine nulla fu tralasciato per disonorare l'epopea resistenziale, infierendo con ignobili calunnie contro molti dei suoi migliori combattenti. E quale ruolo ebbe in questa squallida impresa la magistratura, lo narrano le cronache giudiziarie dell'epoca. Nel Trentino Alto Adige tutto ciò fu poi agevolato dalle rinfocolate inimicizie tra le due componenti nazionali di quella popolazione. La tedesca, umiliata dalla sua giusta reintegrazione nel nostro quadro statuale dopo la sua ingannevole cooptazione germanica, e l'Italia, l'italiana non ancora disintossicata dalla demagogia nazionalista ventennale all'insegna del fascismo. E la resistenza si trovò stretta e stritolata come fra le morse crudeli, opposte ma convergenti, di una tenaglia. Poi, grazie alla maturazione democratica delle masse popolari e alle lotte da essa sviluppate in crescente unità, si sono aperti nuovi tempi alla rivalutazione della lotta vittoriosa condotta armi alla mano contro il fascismo e il nazismo suo alleato. Allora, problemi incancreniti che erano rimasti insoluti per scopi politici non troppo oscuri, furono affrontati e avviati a soluzione anche nella regione Trentino-Alto Adige. Così oggi, fra le nazionalità che vi compongono la popolazione, ciascuna garantita reciprocamente dalle norme della Costituzione, si sono venuti stabilendo rapporti di mutua comprensione e collaborazione. E ciò si verifica anche nella modesta ma significativa iniziativa che mira a ridare la libertà al partigiano Giovanni Pircher, che era per nascita di nazionalità tedesca, ma che per sua elezione si fece combattente volontario in difesa dell'indipendenza del popolo italiano. La causa è degna ed è auspicabile che essa trovi presto suggello e sanzione da parte della massima autorità della nostra Repubblica. Quindi appello diretto al Presidente Leone, il quale finalmente diciamo, dà esito positivo a queste richieste. Chiederei a Romeo, molto brevemente, perché abbiamo abusato della vostra pazienza, ma comunque ancora una decina di minuti forse riuscite a resistere, perché credo che la vicenda sia davvero comunque interessante e intrigante. Allora, vediamo un po' come, cosa succede a Pircher una volta liberato, come si conclude la sua esistenza. Sì, tanto il momento, dunque, diciamo, del condono, ma poi chiudiamo un po' la vicenda biografica. Vicenda, certamente. Ma i primi tempi, appunto, viene accolto da questo amico a Torino, lavora qualche anno per la sua ditta, poi ritorna in Venosta e appunto riprende un po' la vita precedente, un po' di bracciante, di operaio, spesso passa dei periodi in Svizzera e piano piano la sua storia, come dire, perde quasi nel giro di qualche mese, non se ne parla più, ecco, è dimenticato. E quindi, niente, la cosa che, come dire, è interessante è che nel 90 GB parla a un partigiano che ha combattuto in Piemonte, però vive a Bolzano dal dopoguerra, Tino Arona, che è un amico di famiglia mio, e mi dice: sai, ho parlato con un certo che mi ha espresso il desiderio di rivedere una persona con cui non si rivedeva più. Io ho capito immediatamente chi fosse, tramite Poldi, che era in contatto con Hans, abbiamo proprio organizzato questo incontro. È stato commovente perché Pircher e Lazzagna. Sì, in pratica erano passati 15 anni e poi hanno continuato a vedersi e addirittura, vincendo la sua timidezza, lo ha addirittura portato in Liguria per un convegno, e quindi insomma c'è questo risvolto umano molto, molto bello, ecco, commovente. E Pircher muore nel 2002, no? E l'anno dopo è seguito da Lazzagna, sì. Ecco, l'ultimo che ha ancora portato una corona. Esattamente, sì. Quando Pircher muore, abbiamo telefonato a Gibi, ovviamente, ci ha pensato di portare una corona di fiori che abbiamo portato lì alla tomba, ricordi, no? Perché Gigi certo. Non poteva più venire per via della sua malattia, e lì era l'interessante, insomma, noi siamo stati su, Carlo ed io, sì, c'era un po' di popolazione di quel paesino di Vezzano e di Silandro, eccetera, ma poca gente. E lì era molto strano che ad un certo punto ci fu anche la bandiera dell'associazione dei combattenti, di veterani, Südtiroler Kriegsopferfront, e sembra, perché ovviamente quelli non volevano sapere dei disertori e viceversa, erano due mondi, questo lo sappiamo da tanti racconti, no? Però sembra, e questo lo posso confermare con l'esperienza di interviste con altri disertori, come Franz Thaler, eccetera, potrebbe darsi per non essere isolato nel paese o quando andava al bar, in osteria, eccetera, forse quella donna dove abitava ha procurato la tessera in tutti quegli anni, e quindi siccome era tesserato senza partecipare alla vita politica di quell'associazione, sono venuti con la bandiera, noi eravamo molto curiosi. E anche se posso aggiungere la predica con cui il parroco ha accompagnato con sentimento, perché nel paese tutti avevano la percezione perché era arrivato anche un giornale, insomma, avevano la percezione che fosse un personaggio di cui tempo prima si era parlato, ma non sapevano bene il contesto. E la predica del parroco sul passaggio del carcere era che sì, è finito in carcere, ma avevano sbagliato i giudici, non era colpevole, e questa era la spiegazione, e basta, insomma. E comunque, ecco, la sua storia, insomma, era stata ormai trascurata, dimenticata. Allora, voi avete capito che non avete a che fare con due storici, ma con due testimoni delle vicende. Questo è interessante, o meglio, due storici che sono stati anche testimoni diretti delle vicende. Chiudiamo con la lettura, di cui abbiamo già accennato, della lettera di Egarter nell'occasione del 25 aprile del 47, pubblicata sulla rivistina dell'Ampi Il Nuovo Ponte, che è davvero un testamento politico, credo anche di grande attualità, no? Perché avete a che fare, Egarter tutto sommato era per l'autodeterminazione, però nello stesso tempo si rendeva conto che era necessario il dialogo tra le etnie. Due testimoni non di parte, assolutamente, però forse un po' di parte ce la potevamo mettere, ce la possiamo mettere noi, cioè nel senso che se non era la Zagna e non era l'estrema sinistra che proponeva il caso, amici miei, non usciva e non si risolveva. Credo che questo siamo in grado di dirlo anche i due. Mi sembra che l'abbiamo detto. Viene fuori. Sono stato un testimone anch'io, certo. Nel senso che certo. Ho vissuto il comitato di liberazione. Sentite? Comunque Angelucci ricorda che lui era parte di questo comitato di liberazione, insomma firmò la petizione, immagino. Sì. Anche noi non eravamo attendibili, no? Bisogna dire anche questo, no? Che la sinistra estrema, cioè la sinistra non è mai abbastanza attendibile. Ma scusi, ma sua, capo di imputazione per cui è stato condannato, perché non danno 30 anni per uno che ruba specchio, ruba lì. Cioè, il capo di imputazione sarebbe condannato. Sì, li abbiamo detti, ma li ripetiamo. Allora, è omicidio di un tenente farmacista tedesco il 20 aprile, cioè prima della fine della guerra. È stato considerato un omicidio non verso un militare dell'esercito avversario, ma un omicidio per rapina. Oltretutto, c'erano soltanto c'erano, diciamo, degli indizi molto discordanti su questo omicidio, cioè non c'erano delle prove. Praticamente ci fu la confessione di uno di questo gruppo che senza rendersi conto che si mise così a raccontare, ad assumersi un po' da spaccone ogni cosa che era accaduta nella valle, e paradossalmente lui poi uscì dalla scena, Pirker invece non fu incastrato. Quindi c'era l'omicidio di un ufficiale tedesco e poi furti, incendi, rapine, cioè tutto quello che era stato fatto da questa, la chiamavano banda, da questo gruppo, sia nel periodo della guerra sia nei primi mesi del dopoguerra, quando andavano in giro per la valle per conto degli alleati e facevano le perquisizioni per trovare materiale. Sì, peraltro Pirker riguardo all'omicidio si è sempre proclamato innocente e ripetiamo, le prove erano molto inconsistenti. E la famiglia di Monaco, sì, e la famiglia di Monaco, dopo che, perché il caso andò anche in Germania, dopo che fu liberato, tutti si prendevano i meriti, il settimanale Quick, settimanale popolare in Baviera, aveva inviato prima questa foto è stata fatta proprio dal fotografo di Quick. Praticamente la famiglia di questo ufficiale morto disse, cioè scrisse che non poteva essere lui e che assolutamente è tutto falso. Quindi effettivamente non ci fu uno strascico di odi, eccetera. A fine guerra c'erano tantissimi di questi fatti, di questi casi. Bene, io direi di chiudere con la lettura di Alessandro Alimetti, Hans e Garter, 25 aprile 1947. La vostra lotta fu contro il fascismo, come per 20 anni la nostra. La vostra lotta fu contro il nazismo, come la nostra. Noi respingiamo ogni dittatura in qualunque forma, perché soffoca la libera volontà, violenta e distrugge il diritto di partecipare alla vita della Heimat. La dittatura si costruisce e può mantenersi in piedi solo attraverso la guerra tra fratelli e il fratricidio. Essa avvelena l'uomo con quel nazionalismo esasperato che è la causa principale di guerre devastanti e lo contamina con quei disumani concetti di odio per i quali egli diventa capace di eseguire ordini che hanno l'effetto di precipitare i suoi simili nella rovina più indicibile. L'unica capacità che si può riconoscere alle armate di partito delle camicie nere e brune è che hanno saputo confondere le menti e imporre la voce dei tiranni. Per questi compagni di partito era indifferente se i principi del loro programma derivassero dalla più alta saggezza o dalla più manifesta assurdità. Il loro scopo era realizzare unicamente le proprie egoistiche ambizioni. Il vostro giornale porta un titolo significativo, Il Nuovo Ponte. Vuole essere un ponte che conduce dal vecchio al nuovo mondo, dal passato al futuro. Con queste parole sulla guerra fratricida, di cui siamo ancora una volta testimoni purtroppo, credo che possiamo chiudere questa serata in vista delle celebrazioni del 25 aprile. Grazie a tutti. Grazie.